Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi da Nicoletta. Se la vostra vita è frenetica, stressante, se avete la sensazione, in alcuni casi la certezza di pagarne le conseguenze, chiamatemi. Ci lamenteremo un po' perché anche questo aiuta, ma cercheremo soprattutto di capire come stare bene. Questa è la nostra sfida quotidiana. Ehi, taxi! Invece di dormire faccio la lista. Primo, portare Emily a scuola. Che invidia, sei sempre elegante. Noi che stiamo dietro ai figli ci infiliamo la prima cosa che capita. Secondo, cercare di non farsi mettere sotto al lavoro. Non sei un po' in ritardo stamattina? Terzo, passare più tempo con Richard. Stacca morta anche stasera. Non è ancora morta. Quarto, i bambini. I dolci per l'asilo, le luci di Natale, le feste di compleanno. Ma come fai a far tutto? Ma come fai a far tutto? Ma come fa a far tutto? Il logorio della vita moderna ci rende acidi. Siete d'accordo con me? Non è solo un'impressione. Ci sono, pensate, dei disturbi che negli ultimi anni hanno avuto un incremento straordinario e la loro incidenza è cresciuta proporzionalmente al ritmo frenetico della nostra vita. Uno di questi è il reflusso che nell'ultimo decennio, secondo alcuni dati, ha avuto un incremento quasi del 50%. In Italia sembra che il problema interessi 12 milioni di persone. Siete tra questi? Chiamateci allora 800 24 00 24 qui in studio con me Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, che come ogni mese viene a trovarci. Un piacevole ritorno, questo è un piacevole a proposito di reflusso. Sì, anche perché il servizio è un po' autobiografico, perché io ho sofferto di reflusso per diversi anni, adesso sono guarito, ma perché mi sono messo a dieta e ho perso peso, ma poi questo lo vedremo più avanti. È uno degli elementi, il peso è uno degli elementi più importanti sull'acidità. Allora, reflusso gastroesofageo, Alessandro, il nome sì. La dice lunga, fa riferimento ad un ritorno, in questo caso una risalita del cibo, mentre l'aggettivo gastroesofageo indica bene il punto in cui si localizza il disturbo. Il cibo infatti torna su dallo stomaco e risale nell'esofago. Tutto qui invece la situazione è molto più complessa, perché accanto ai sintomi classici, questo fastidio dietro lo sterno, la sensazione di bruciore in fondo alla gola, l'amaro o l'acido di cui parlavamo in bocca, ce ne sono altri che con l'esofago sembrano non avere nulla a che vedere. Si chiamano per questo atipici, ve ne cito alcune: dolore al torace, tosse, raucedine, dolore nella deglutizione, ma anche gengiviti, afte, carie. Ci sono delle persone che hanno proprio un male corto. Al cuore, vanno sì. Al pronto soccorso, tutto a posto, fanno l'elettrocardiogramma, gli enzimi sono tu, e invece poi era il reflusso. Voi ne parlate perché sembra che di questa varietà di sintomi soffrano soprattutto le donne, noi donne. Sì, assolutamente sì. Beh, diciamo che l'introduzione che hai fatto sentire lo spiega bene. Voi donne siete, come si dice nell'era digitale, multitasking, per cui avete tutta una serie di stress in più. Fai conto che mi raccontavano che chi è sotto stress arriva a produrre qualcosa come 5 volte la quantità di acido di una persona normale. Quindi una volta, quando non si sapevano queste cose, si diceva all'ulcera perché è stressato. Adesso abbiamo scoperto cos'è l'helicobacter, abbiamo scoperto che lo stress fa produrre più acido, e sono persone che poi magari fanno gli esami, sono assolutamente normali. Quindi c'è anche un discorso di ipersensibilità. Noi tutti abbiamo un organo bersaglio, qualcuno al colon, qualcuno al mal di testa, e quindi la parte, certo. Molte di voi dove hanno picchia lo stomaco stress, esatto. 800 24 00 24, se siete stressati dove picchia il vostro stress. In linea con noi abbiamo il professor Dino Vaira, professore di medicina interna al Sant'Orsola di Bologna, Università degli Studi, Alma Mater. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei, stavo facendo notare alla sua assistente che siamo a 920, il che vuol dire che l'Alma Mater sono 920 anni che è sulla piazza. Per carità. Complimenti. Complimentoni. Complimenti all'Alma Mater, non a me. Professore, il reflusso è un trasformista, ci stupisce, l'abbiamo anticipato, con effetti speciali. E poi proprio così, ci stupisce con effetti speciali. In realtà, come giustamente diceva lei, è la patologia del secolo, perché ci inficia la qualità di vita. Intanto tranquillizziamo i nostri radioascoltatori, è una patologia benigna per definizione. Bravo. Quindi questa è una cosa molto importante, però purtroppo ci rende infelici, nel senso che ci rende la nostra qualità di vita giornaliera veramente povera, e questo ovviamente inficia su tutti i nostri rapporti, sia lavorativi che affettivi. Assolutamente, diventiamo acidi veramente. Proprio così. Perché? Bella battuta. Professore, mi scusi, ma quanto conta lo stress per il reflusso? Che relazione c'è? Come giustamente diceva il suo ospite, conta moltissimo, perché non c'è ombra di dubbio che se lo stomaco mi secerne un mucchio di HCL, il comunissimo acido cloridrico, in pratica mi risale attraverso questa giunzione, questa valvolina che divide l'esofago dallo stomaco, su per l'esofago, perché dobbiamo ricordare che l'esofago non ha protezione. Se lei mi passa la metafora, è un pochino come il sederino dei neonati, quindi è molto fragile, serve solo per far passare i nostri, per esempio, tortellini, giusto perché siamo a Bologna, ma non per digerirlo. Per cui non c'è un bel dubbio che se c'è uno sbuffetto di acido su questa mucosa senza protezione, immediatamente la irrita, e la irrita come una scossa elettrica, cioè va su per la gola, ed ecco il motivo per cui lei, come giustamente ha detto all'inizio, abbiamo tutti quel po' di sintomi atipici. Professore, comunque ci sono, a parte le persone stressate, ci sono anche persone più a rischio di altre. Alessandro Pellizzari diceva appunto quanto i chili di troppo, i chili in più possono pesare, certo, e provocare. Anche a te è capitato? Sì, io... Sei diventato morbido? È iniziato tutta una serie di problemi, tra cui il reflusso. Esatto, adesso sei un che figurino. Più, che era il più fastidioso, è quello che mi ha portato poi a fare la dieta per prima, perché quando uno ha il reflusso ha proprio male. Non a caso tu dicevi, certi finiscono addirittura al pronto soccorso perché sentono questo dolore retrosternale, magari irradiato al braccio, e dicono: cavoli, qua ci siamo. Invece per fortuna poi finiscono dal gastroenterologo. Professor Vaira, stress, chili di troppo? Io dico che Alessandro Pellizzari è fantastico. Beh, perché ha messo immediatamente il dito classico sulla piaga. Sì. Il 90% delle nostre amiche, mamme, sorelle, fidanzate hanno qualche chilo di troppo. Che diavolo vuol dire? Vuol dire che c'è un aumento di pressione dentro lo stomaco che tenta di sfiancare questa valvola. È come se qualcuno dall'esterno con una spallata tende di aprire la porta dell'uscio della nostra abitazione. Esattamente questo è il meccanismo, per cui tirando via quello che noi comunemente chiamiamo noxa patogena, cioè un aumento di pressione, favoriamo la guarigione di questa valvola ancor più che con i farmaci, guardi mo. Per cui alla stessa stregua avere un minimo di calo ponderale è molto più importante che non fare addirittura una terapia. Ma che stai facendo? Ti mangi quella cosa là? La cioccolata? Che le fa malissimo. L'enterocolite ti fa venire questa cosa qua. Sei pazzo. Questa è tremenda. Non parlammo poi la gastrite. Hai detto che fa venire la gastrite? Ma non porti già tengo la gastrite. Allora voglio far venire l'ulcera, ma dai! Maronna! Maronna che acidità di stomaco! Abbiamo sentito Giobbe Covatta, Buzungu, diretto da Massimo Martelli e scritto proprio dallo stesso Giobbe Covatta, per aprire il capitolo alimentazione. Professor Vaira, ci sono degli alimenti che più facilmente di altri ci provocano acidità o tornano su, e vorremmo sapere anche se ci sono degli alimenti con una sorta di effetto tampone, cibi sì, cibi no. E intanto gliel'ho detto direttamente a Giobbe Covatta quando è venuto qui a Bologna al Teatro delle Celebrazioni, quindi gli ho dato un vademecum che sicuramente lui non seguirà, però almeno in scienza e coscienza il mio dovere l'ho fatto. Continuo ad aumentare di peso, peggio per lui. E quindi che cosa? Sicuramente gli irritanti ci fanno male. Adesso so che do veramente un colpo al cuore innanzitutto alle nostre ascoltatrici di sesso femminile più che gli ascoltatori di sesso maschile. La cioccolata è veramente veleno per chi soffre di reflusso gastroesofageo. Il secondo imputato è il meraviglioso caffè che tutti noi pigliamo la mattina perché ci fa sentire più in forma. Poi gli agrumi, ovvero tutta la roba acida, arance, limone, e non ultimo il pepe e il peperoncino, gli irritanti, l'acqua gassata, la roba gassata ci fa di un male infinito, perché in pratica riempie la cavità gastrica di queste piccole bollicine, tanto per cambiare, che sfiancano questa benedetta valvolina. E purtroppo è proprio così. Io mi ricordo le mie colazioni all'epoca del reflusso più alto, se bevevo il caffè, ho iniziato a togliere il caffè perché non riuscivo a gestirlo. Ma anche la banale aranciata, uno dice: ma cosa c'è di più buono e sano di un succo di frutta oppure una spremuta d'arancia? Vedi veramente le stelle. Pietro, buongiorno da Roma, 800 24 0024. Buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Questa mattina state toccando un argomento fondamentale per tante persone. Io credo che lo stress sia il male del secolo. È chiaro che ognuno di noi ha un organo bersaglio. Nel caso mio, io noto che a prescindere che quando mi accade il reflusso, la sera devo assumere assolutamente il Gaviscon, perché altrimenti non respiro più e me ne vado all'altro mondo. Allora io credo che l'alimentazione sia fondamentale. Io anche quando mangio la pasta mi accade questo fenomeno. Perché la pasta ha questa... mi sento proprio un'acidità durante la notte che non mi passa mai. E allora con il Gaviscon riesco a tamponare. Vorrei sapere lo stress sembra la pasta. Grazie Pietro, sembra un po' una pubblicità per questo farmaco che viene utilizzato solitamente dalle persone che soffrono di reflusso. Ma professor Vaira, perché la pasta? Perché non è colpevole la pasta. Devo dare una brutta notizia a Pietro, la verità è che lui la sera prima di andare a cena si mangia sicuramente 100-150, a volte 200 grammi di pasta, che ovviamente non va mangiata la sera. Noi dovremmo fare una colazione abbondantissima, un pranzo leggero e una cena altrettanto più leggera, quindi in realtà la pasta si può tranquillamente mangiare, ma non c'è ombra di dubbio, come direbbe Giobbe Cavatta, se noi ci mangiamo una scafagna di pasta alla sera sicuramente rimane un po' probabile di reflusso, mi segue? Perché è una questione di volumi, professore, no? Assolutamente poi. Sì, 50 grammi di pasta, stia tranquillo che non gli dà nessun tipo di... Facciamo anche 70, dai. 50 è una forchettata. Dai, 50 è proprio piccola, Beh, l'ottica che o l'uno o l'altro, o il primo o il secondo. Va bene, però come faceva notare il nostro ascoltatore, il problema si presenta spesso dopo pranzo, a distanza di qualche ora. Ma come si dice, uomo avvisato, mezzo salvato. In linea con noi abbiamo Lisetta Landoni. Buongiorno, ciao Lisetta. Buongiorno a tutti voi. La nostra insegnante di yoga preferita. Leggete sempre i suoi consigli sul nostro Daily Lab. Sì. E Lisetta è pronta, immagino, a suggerirci qualche asana. Sì, io sono pronta, anzitutto sono stata ammirata da quello che ho sentito, sono perfettamente d'accordo, conosco il problema e quindi ovviamente non posso che allinearmi e dire pasti leggeri, sia quantitativamente sia qualitativamente. Poi un'altra cosa importante che si dice... mentre invece lo yoga dice la sua su questo, anche il semplice bicchiere d'acqua, si dice, nello yoga si dice bisogna masticare la propria acqua, quindi non si deve ingollare un bicchierone pieno di qualcosa, bisogna proprio centellinarlo. Questo è un consiglio che possiamo passare a tutti, vero professor Vaira? A Nicoletta di più, se Olivetta vuole venire a frequentare qui da me la prendo volentieri perché è perfetta. Lisetta tra l'altro così in mezzo tra le corsie potete fare anche un po' di yoga, qualche asana. Scusate, vi state parlando uno sopra l'altro. Lisetta, parla tu. No, dicevo, io in effetti amo molto le corsie, perché io amo molto gli aspetti medici, quando appunto da yoghini, da praticante di yoga, io desidero sempre trovare un riscontro, l'effetto di quello che si fa nella medicina attuale. Basta, Lisetta, è fatta, col professor Vaira è fatta, ti prende. Ecco. Professor Vaira, sì o no? Ma deve fare la tesi con me, deve studiare, deve lavorare 12 ore al giorno con me. Va bene, però insomma Bologna è anche una bella città. città. Lisetta, vogliamo dare un'indicazione alle persone che soffrono di reflusso, sanno che ci sono dei momenti particolarmente critici? Il consiglio è: quando mangiate non andate a fare la pennichella in poltrona, no, fate due passi. Ma neanche sdraiarsi sul divano dopo mangiato. Mi piace quella immagine un po' vittoriana di quelli che stavano seduti a tavola molto impettiti. Beh, a parte i busti stretti, che chiaramente bene non fanno, però sicuramente stare con la schiena diritta e magari dopo mangiato usciamo a fare una passeggiata. Tanto il passo è stato leggero, facciamo una passeggiata, torniamo e poi facciamo le nostre solite attività. Questo soprattutto durante il giorno, la sera cibi leggerissimi. Però ho inventato proprio per i nostri ascoltatori che hanno questo problema di reflusso una cosa che non è una posizione di yoga, che sarebbe troppo complicato spiegare e fare, e che avrebbe anche delle controindicazioni se fosse fatta non seguita da qualcuno. Ecco, dico semplicemente questo: immaginate di potervi sedere su una sedia con un bello schienale diritto, ecco, poi tenendo unite e i piedi uniti a terra, ecco, ruotate tutto il busto in modo da poter portare la mano sinistra sulla spalliera destra della sedia e la mano destra sulla spalliera sinistra. Quindi proprio una torsione che si verifica a livello epigastrico. Ecco, e state nella posizione abbastanza lungo, respirando proprio con la pancia. La stessa cosa si ripete invertendo chiaramente il senso della torsione. Quindi è un massaggio bello, direi, intenso. È un bel massaggio forte. Sì, attenzione, non è da fare dopo mangiare. No, perché sennò si vomita. Lasciamo stare che anche dorme, appunto. Quando una persona vede, perché in genere queste persone poi hanno tutte una digestione molto lenta, ma quando si vede che passate le tre ore, eccetera, eccetera, è ancora lì il cibo che balla in giro, eccetera, questo sicuramente. Andiamo di torsione. Un consiglio che Lisetta Landoni ha ideato proprio per gli ascoltatori di Essere Benessere. Lisetta, un abbraccio. Grazie a te, grazie Nicoletta, a tutti voi, arrivederci. Grazie. Grazie. Professor Vaira, vede? Posso aggiungere qualcosa di molto importante, certo, che ha già anticipato la Lisetta? Sì. L'acqua. L'acqua naturale, non gasata, non fredda, e come giustamente diceva la Lisetta, va bevuta a piccoli sorsi. Noi abbiamo bisogno di rieducare il nostro organo interno, ovvero l'esofago. È come se quando ci fa male le spalle, la schiena, facciamo un bel massaggio. Purtroppo agli organi interni non possiamo fare dei massaggi. Quindi bevendo dell'acqua naturale, non gasata, non fredda, quella del rubinetto è perfetta, così non facciamo la pubblicità a nessuno, ma bevendola a piccoli sorsi ci fa di un bene infinito. Senta, professore, e invece il latte, che è uno dei vecchi rimedi che quelli che hanno l'acidità di stomaco usa, mi risulta che forse non è poi così un rimedio, ha un effetto. No, invece va benissimo. Ah, okay. Come al solito, senza abusare, ma latte e derivati del latte vanno assolutamente benissimo. Per chi usa il latte, il chewingum si sta meglio, con il chewingum si sta meglio, ci scrive Fiorella al 349-238-6666. Professore. Assolutamente no, perché stimoliamo la secrezione acida. Quindi Fiorella non ci ha dato un buon consiglio, eh. Andrea da Mantova, buongiorno. Sì, pronto. Buongiorno Andrea. Ciao Nicoletta. Buongiorno. Sì. Grazie. Volevo raccontare un attimo la mia storia in breve. Io da sempre soffro di problemi, diciamo, gastroenterici, no? Se così si può dire. Nel senso che spesso mi succede che mi vengono dei fortissimi mal di testa dove proprio mi debilitano, cioè sono invalidato in quel momento lì. Succede che comincio a sudare, freddo, e quando poi vado a vomitare sto bene. Mi era stato diagnosticato dal gastroenterologo che avevo un riflusso biliare, così mi è stato detto. E mi aveva detto appunto di non bere robe gassate, di mangiare lentamente anche tutte queste cose, anche di dimagrire. Andrea, lei è andato veloce di dimagrire, ma ha cambiato discorso, perché non è dimagrito lei. No, non sono dimagrito assolutamente. Vabbè, insomma, sono robusto, ecco, non sono. Ha compilato il questionario di Mangia con me? Sì. No, vada sul sito, andate sul sito di Essere Benessere, c'è Mangia con me, compilate il questionario, potreste essere selezionati e diventare protagonisti di una nostra puntata e quindi essere seguite dai nostri esperti per 8 settimane. Ma Andrea, lei ha bisogno del professor Vaira. La domanda precisa qual è? Niente, volevo sapere se quello che mi era stato diagnosticato dopo la gastroscopia era corretto innanzitutto, e soprattutto cosa potevo fare per vanificare questo mio problema. Certo. Ecco. Professor Vaira, un caso difficile. Andrea, abbiamo visto che non vuole dimagrire. E quindi questo è il vero problema, ma in realtà Andrea ha bisogno di fare innanzitutto una banale ecografia dell'addome superiore, sì, ovvero andare a vedere come sta la sua colicistis, perché se è vero che c'è un reflusso biliare vuol dire che la colicistis che produce bile c'è qualche problema, vedi calcolini, vedi litiasi, vedi fango biliare. La seconda cosa fondamentale che dobbiamo dire a tutti i nostri radioascoltatori è che chiunque fa la gastroscopia deve assolutamente fare un prelievo dello stomaco per vedere se c'è l'elicobatter, perché una volta portato via l'elicobatter dallo stomaco abbiamo la garanzia assoluta che non ci ammaleremo mai più di cancro, e questo è fondamentale anche per i pazienti che soffrono di reflusso gastroesofageo. Prima di intraprendere una terapia per il reflusso gastroesofageo, e queste sono le linee guida europee dal 2012 fino al 2018, dobbiamo assolutamente effettuare un test non invasivo o sul respiro o sulle feci per vedere se abbiamo nello stomaco questo benedetto batterio che tanto benedetto non è. 800 24 00 24. Professor Vaira rimane con noi insieme ad Alessandro Pellizzari. Pensate che tra i sintomi atipici abbiamo detto che il reflusso è un trasformista, c'è anche un leggero cambiamento del tono della voce. Di reflusso soffrono, il reflusso dà del filo da torcere ai cantanti, ma non solo. Essere e benessere. Arti, tu suoni la chitarra, no? Puoi reclutare la jazz band? Ho delle conoscenze, sì. Ok. Mercedes, ci puoi procurare dei nuovi costumi che siano alla moda? Me lo chiedi, non vedi come vado in giro? Rachel, a te le coreografie. Tina, tu che sai fare? Troveremo qualcosa anche per te. E tu cosa metti nel piatto, Justin Timberlake? Io metto la musica. Noi parliamo di voce insieme al dottor Franco Fussi, foniatro otorinolaringoiatra, responsabile del centro foniatrico USL di Ravenna. Buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Abbiamo bisogno di lei perché abbiamo capito che questo reflusso può in qualche modo dare fastidio anche alla voce, che si modifica un po'. Ci sono persone che sentono proprio che la voce cambia o che hanno proprio bisogno di schiarirsi la voce perché c'è questo catarrino, mi lascio usare questa parola, che si appiccica alle corde vocali, queste vibrano meno bene. Per i cantanti il reflusso è veramente un problema serio. Sì, il bisogno di raschiare noi lo chiamiamo raclage. Dipende proprio dall'accumulo, dall'addensamento e dalla disidratazione del muco che lubrifica le mucose, che a causa della provenienza dell'acido da parte dei succhi gastrici verso la faringe e colpisce anche la laringe, quindi abbiamo una disidratazione delle corde vocali, l'addensamento del muco, il bisogno quindi di schiarire la voce proprio per rimuovere questo muco addensato, che appunto un catarro non è, ma è semplicemente l'effetto del reflusso. È il reflusso che chiamiamo gastroesofageo e non è il reflusso faringo laringeo e non gastroesofageo, quindi ha dei sintomi che non sono quelli digestivi classici, ma ha dei sintomi appunto che sono soprattutto vocali. E cosa si fa? Ma per togliere questo raclage, mi piace raclage, adesso userò questo termine, sento che hai un po' di raclage. Sì, a parte le norme alimentari che tutti conoscono, sì, immagino, cioè evitare comunque cibi acidi come pomodori, cioccolata, caffè. Sì, il professor Vaira ce li ha già tolti tutti, non ci fa bere gasato. Siamo a 50 grammi di pasta. Siamo a 50 grammi di pasta, professor Vaira. Oltre a questo... No, però i cibi acidi li abbiamo tolti, ma ci sono anche altri consigli? Anche delle norme di igiene, tipo inclinare il letto, tipo usare un cuscino doppio per poter evitare appunto una posizione supina che faciliti durante il riposo notturno e la risalita degli acidi. Poi modificazioni dietetiche come ridurre il peso corporeo, evitare paste abbondanti, evitare di alimentarsi prima di coricarsi o addirittura a letto, evitare anche farmaci che possano indurre o aggravare il reflusso, e poi tutti quei movimenti che aumentano la pressione addominale, quindi non fare troppe flessioni sul busto, esercizi per gli addominali. Ma per la voce in sé non ci sono degli esercizi proprio per togliere questo raclage? Sì, si può fare qualche... agire sulle manovre di respirazione diaframmatica posteriore piuttosto che anteriore. Quindi... Che è un nome difficile che io non capisco, cosa vuol dire? Comunque curare bene la respirazione per il cantante è essenziale a non facilitare il reflusso, anche perché per forza di cose il cantante, come il bodybuilder, utilizza pressioni addominali. E per chi non è cantante, professor dottor Fussi? Per chi non è cantante e soffre di reflusso, la dieta alimentare è importante, ed evitare lo stress, ovviamente, lo stress psicofisico generale. Il reflusso colpisce, come sappiamo, soprattutto nei cambi di stagione, quindi in particolare nel cambio di stagione assumere anche tutte quelle che possono essere delle terapie che aiutino. Certo, quindi questi sono dei consigli di igiene di vita, igiene alimentare. Paolo mi scrive: mi spiegate per cortesia perché appena avete nominato il raschiare la voce ho sentito il bisogno di raschiare la gola? Il problema è che poi se uno è di raclage in raclage, dottor Fussi. Sì, diventa poi un gesto sbadiglio che fanno anche i cantanti o gli speaker, no? Prima di iniziare a parlare schiariscono un attimo la voce, perché c'è una forma di tensione e si vuole essere sicuri che le corde siano libere da muco. Poi per simpatia, come quando ci mettiamo a sbadigliare, c'è qualcuno vicino a noi che si mette a sbadigliare. Certo, è così, è quasi contagioso. Esatto. Grazie, dottor Fussi. Prego, prego. Professor Vaira. E quindi la voce si mette a posto, mettendo a posto un po' la dieta, le regole di vita. Posso dire una cosa sul cuscino? Ecco, attenzione, perché io facevo un errore, cioè quando sentivo il reflusso arriva soprattutto quando sei sdraiato, però per una questione di gravità. Io facevo un errore, mettevo troppi cuscini, mi hanno spiegato poi che tu più ti metti a L come posizione, più, soprattutto se hai la pancia, questa pancia comprime e quindi aiuta, fra virgolette, il reflusso. L'ideale sarebbe proprio alzare tutto il letto, anche di poco, mi hanno detto di 7 centimetri, però in modo da essere belli distesi. Belli lunghi. È il motivo per cui dicono non la pennichella mai. Seduti è micidiale. Professor Vaira. Servono questi accorgimenti? Lo assuma nella sua radio, questo è fantastico, bravissimo. Bravo, bravo, ma lo tengono a star bene, lo tengono bello stretto. Quindi andiamo anche noi di sollevamento letto a questo Posso punto. Posso dare una curiosità, Nicoletta? Deve, che lei mi piace. Ricorda quel bellissimo film adesso, quel discorso del re, meraviglioso? Sì. E lui soffriva di reflusso. In realtà il suo era un reflusso paradosso che non gli permetteva di esporre l'eloquio. Perché si arriva anche a questi tipi di reflusso. Certo, come giustamente diceva il dottore Pocanzi di Ravenna, c'è questo, si sente il bisogno di raschiare la voce. Lui ogni volta, prima di fare questi discorsi mega galattici ufficiali, in un periodo storico maledettamente duro e violento, raschiava la voce, la raschiava così tanto che oltre alla difficoltà dell'eloquio aveva ovviamente un maledetto reflusso gastroesofageo che gli impediva letteralmente di parlare, ed era, se lei mi permette, una specie di escusazzo che lui trovava di fronte a tutto il popolo britannico, e questo è storico. Certo. Fra l'altro i medici di allora gli dicevano di fumare per rilassare la gola, e questo aggravava ancora di più questo fenomeno, immagino. È vero, ma infatti i medici in realtà dicevano di fumare solo perché non conoscevano l'altra dottoressa che faceva lo yoga, e quindi non avevano altra possibilità. Vedi, di farlo rilassare. Ecco, quanto siamo fortunati noi con gli esperti che vengono a trovarci ad Essere Benessere. Essere Benessere. Non ti sopporto più, davvero! Davvero. Ci sono alcuni cibi, alcuni alimenti che tornano su, ma ci sono situazioni e persone che non riusciamo a mandare giù. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Aquilar. Buongiorno dottor Aquilar. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Psicologo, psicoterapeuta cognitivo, di cui leggiamo i post sul nostro Daily Lab, che hanno grandissimo successo, dottor Aquilar. Allora, noi non è solamente il pomodoro, il caffè, gli agrumi, la cioccolata che tornano su. Ci sono invece delle situazioni, pensavo anche delle persone, che proprio invece vorremmo mandare giù, ma non vanno. Le antipatie, il nervosismo che ci provocano proprio alcune persone, c'è il classico, no? La battuta per la suocera. Dottor Aquilar. Allora, ci sono delle persone che ci stanno sullo stomaco, ma il problema non è tanto la persona, ma sono le emozioni che ci derivano dall'interazione con questa persona che a volte non riusciamo a riconoscere adeguatamente, né ad esprimere bene, né a modulare. Sì. In particolare sono quattro le emozioni legate allo stomaco. La prima è la rabbia. Sì. La seconda è la paura, la terza fortissima è il disgusto, proviamo disgusto o anche schifo per alcune modalità nelle quali agiscono le persone, e la terza è la preoccupazione allarmata. Uno dei nostri obiettivi potrebbe essere quello di imparare a riconoscere queste emozioni e ad esprimerle almeno con noi stessi, in modo da riuscire con degli esercizi di pensiero a tenerle più modulate. Ripetiamo le emozioni: rabbia, rabbia, paura, disgusto e preoccupazione allarmata. Ok. E questo ci aiuta, insieme a tutte le norme igieniche ed alimentari che sono state raccontate finora, ci aiuta a ridurre in qualche modo la tensione dello stomaco e ci aiuta anche a capire un po' di più il comportamento che noi dovremmo avere nei confronti di queste persone. Per esempio, nei confronti di quelle che ci fanno rabbia è una questione di competizione, dobbiamo scegliere in che posizione di competizione metterci. Nei confronti di quelli che ci fanno paura potremmo stare attenti a riconoscere questa paura e, se possibile, a ridimensionarla. E nei confronti di quelli che ci fanno disgusto dovremmo allontanarci il più possibile. Sì, come se fosse un odore sgradevole. Mentre la... Esatto. Quindi farsi delle domande e cercare almeno di darsi delle risposte tra sé e sé. Certo, e cercare di contenere la preoccupazione allarmata, quel pensiero che ci viene quando noi pensiamo e se accadesse questo, e se accadesse quest'altro, e se accadesse quest'altro, questo ci fa contorcere sullo stomaco peggio che stare a letto dopo un pranzo abbondante. Perché, professor Vaira, lì è questa preoccupazione, questa allarmata, e lo stomaco va di acido, vero professore? Non solo è vero, ma ritorniamo al discorso iniziale che facevate dell'organo bersaglio. Noi abbiamo un nervo cranico, che è il decimo nervo cranico, che è il vago, che ci serve da impazzire, che ci aiuta, perché ci innerva il nostro cuoricino, il nostro esofago, il nostro stomaco, il nostro intestino, se mi permette, il nostro pancino. Perché dico pancino? Perché può dare la colite. Questo benedetto nervo vago, in situazioni di stress, viene iperstimolato. In realtà lui lo fa per proteggere. Certo. Come dire, abbiamo paura e dice al cuore pompa più velocemente, così lo aiuti di più. E nel caso paradosso invece, per esempio per lo stomaco, se c'è un più acido, oppure nel caso del colon e quindi della colite, fa contrarre in maniera spasmodica l'intestino e ci dà l'infiammazione del colon. Quindi in realtà è tutto legato da questo benedetto decimo nervo cranico che si chiama vago, che è una specie di linea guida di tutto il nostro organismo. Quindi andate sul nostro Daily Lab, leggetevi i consigli del dottor Aquilar e continuiamo così, proviamo a farci delle domande e a darci delle risposte. Dottor Aquilar, ripeto le emozioni: rabbia, paura, disgusto e preoccupazione allarmata. Esattamente. Ho imparato. E vai. Grazie, sì. Dottor Aquilar. Grazie. Ci sentiamo tra poco. Allora, ci sono casi, abbiamo cercato di modificare lo stile di vita, allora si deve dimagrire. Il consiglio di Alessandro Pellizzari del letto, alzate non il letto. Cuscini. Smettere di fumare, evitare alcuni alimenti, provare con lo yoga, fare delle respirazioni, riconoscere le emozioni. Professor Vaira, che cosa un dobbiamo po' di aggiungere? Attività sportiva ci fa benissimo. Mezz'ora di attività sportiva non giornaliera, ma addirittura settimanale costante. Ovviamente chi riesce a farne di più è tutto positivo. Ma una mezz'oretta, un'oretta di attività sportiva, possibilmente in acqua, acqua gym, nuoto, qualunque cosa fatta in acqua equivale a tre volte qualunque attività sportiva di tennis, di footing, di golf, di qualunque altro tipo di sport. L'acqua ci funge da ammortizzatore, quindi qualunque fascio muscolare in una vasca d'acqua viene messa in atto, viene messa in funzione, e questo ci funge da scarica, proprio come un parafulmine di tutte le tensioni di cui parlavate, quindi il capo ufficio, quindi la moglie, quindi i figli, quindi la fidanzata e così via. Però ci sono casi in cui il problema è talmente accentuato e rischioso per la qualità di vita del paziente e poco rispondente ai farmaci che l'unica strada percorribile sembra l'intervento chirurgico. Sottolineiamo subito, prima di dare la parola al professor Alberto Della Valle, responsabile del Centro Obesità ICCS di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Sottolineiamo subito che si tratta di casi molto molto rari che devono essere ben individuati e diagnosticati, professore Della Valle, perché il reflusso si può correggere proprio partendo dallo stile di vita e dalla diminuzione del peso di cui lei tra l'altro professore si occupa. Esatto, esatto. In effetti i casi di reflusso gastroesofageo che vengono alla nostra attenzione sono limitati. In genere quando c'è una abbastanza voluminosa ernia iatale, poi altri sintomi che portano ad un'infiammazione dell'esofago grave, ecco. Allora in quei casi interveniamo noi. Senta professore, lei che si occupa di obesità, dopo quante la perdita di chili in più è molto importante per ridurre il sintomo. Ci faccia un esempio. Certo, specialmente in pazienti obesi che arrivano alla nostra osservazione per problemi di obesità, riscontriamo il reflusso gastroesofageo e man mano che questi dimagriscono o per l'intervento che facciamo o per semplice dieta, si vede che la sintomatologia, i sintomi, anche tutto il corredo infiammatorio dell'esofago diminuisce, quindi migliora. Ecco. Quindi come ci insegna Alessandro Pellizzari, proprio con... Io ho smesso di prendere i farmaci. Ha smesso di prendere farmaci riducendo il peso. Esatto. Professor Della Valle, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Professor Vaira, noi abbiamo 30 secondi perché poi mi sfumano. Volevo affidarle a lei per fare una specie di per il riflusso fai così, le cose da non dimenticare. Ma innanzitutto poi ci siamo dimenticati, cara Nicoletta, di dire la cosa fondamentale, che il farmaco, l'inibitore della pompa protonica ci serve assolutamente, attenzione, perché giustamente dobbiamo tirare via tutte quelle che fungono da noxa patogena, però... ma purtroppo il farmaco per almeno 6 mesi da prendere 30 minuti prima della colazione va assolutamente preso, sia esso omeprazolo, lanzoprazolo, pantoprazolo o isomeprazolo, quindi questo innanzitutto ci aiuta nella nostra qualità di vita giornaliera. Professor Vaira, e poi vengono valide tutte le informazioni che abbiamo dato nel corso della trasmissione. Grazie ad Alessandro Pellizzari e al professor Vaira, grazie soprattutto a voi, noi ci sentiamo domani. Essere e benessere.